Già la memoria è buona, Giornetti, ma lei so, mi può noi, fare ma di Ma noi più. Tutto il giorno, Nicoletta, sopra le nostre sudate carte. Come possiamo farcela? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Popliteo, happy birthday to you. E allora, eccoci qua. Paolo, buongiorno, dalla provincia di Milano. Paolo. Buongiorno. Buongiorno magnifiche, io ho sempre avuto un quoziente di intelligente leggermente superiore alla media. Diciamo ora, così. Adesso sono anche a modestia, anche a modestia non stiamo messi male. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mesdames et messieurs les journalistes de la presse française, de la presse internazionale. Insomma, Nicoletta, eccolo. Il nostro non è proprio nostro, è François Hollande e anche lui ha la sua prostata. Certo, Deborah, perché François Hollande è un uomo e come tale ha la prostata, perché la ghiandola viene data in dotazione ad ogni essere umano di sesso maschile, non solo ai presidenti. E anche la prostata dei presidenti, come quella di qualsiasi altro uomo, nel corso degli anni può infiammarsi, ingrossarsi, diventare sede di tumore, e di questo parleremo nel corso della puntata. Quindi, a differenza di Hollande, che del suo problema alla prostata non ha fatto parola, noi invitiamo i nostri ascoltatori a chiamarci al nostro numero verde 800 24 00 24 per trovare risposte, ma anche e soprattutto per avere indicazioni e consigli per fare una buona prevenzione. Eh sì, perché quando i nostri ascoltatori chiamano al nostro numero verde, chiamano numerosi per fortuna, parlano liberamente, espongono i loro dubbi, fanno domande, raccontano le loro esperienze, mentre, come avete sentito, Hollande non ha detto nulla. E questo ai francesi non è andato giù, si sono sentiti un po' traditi, come era già successo ad altri personaggi illustri della politica francese, Georges Pompidou, François Mitterrand, due mandati con un cancro alla prostata che fu causa della morte per Mitterrand, l'ictus di Jacques Chirac, della cui salute non si era saputo nulla per ben 10 anni, ma fino a quando, a parte questi casi clamorosi, è giusto appellarsi alla privacy? E di questo parleremo nella seconda parte di Cuore Denari. Andiamo. Natura, nutrizione scientifica. Vi presenta Essere e benessere. Cos'è la prostata? Dunque sì, la prostata è facile. Ecco, dice sì, di donna molto prostra. Dunque, dicevo che è una posizione... Donna in stato di... adorazione. No, ecco, mi sovviene. È un dolce, lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata di... si può fare di metilo, di pera. Ecco, è l'imperatore romano. L'eresiarca bizantino, Giuliano, la prostata. E la ghiandola virile per eccellenza può infiammarsi, ingrossarsi, ma anche ammalarsi seriamente, diventando sede di una neoplasia che oggi ha ancora numeri importanti, ma rispetto al passato fa sempre meno paura. Nell'ultimo decennio la mortalità è infatti diminuita del 10%. Ma la prostata può, e per fortuna succede nella maggior parte dei casi, godere di ottima salute. Io partirei proprio da qui. Da una prostata felice, che sta bene, funziona bene, non dà problemi, insomma, la prostata ideale che ogni uomo vorrebbe avere e mantenere. Allora, iniziamo subito a capire come ci aiuta oggi il dottor Andrea Salogna, urologo e andrologo al San Raffaele di Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Dottore, ormai prostata è diventato sinonimo di problema. La famosa frase, dottor, c'ho la prostata, la dice lunga, no? Molto. Sulla fama di questa ghiandola che nell'immaginario maschile, io non ho ancora capito perché, è destinata a dare nel breve o nel lungo periodo qualche disturbo, invece è preziosissima, solitamente funziona bene. Beh, guardi, è più che preziosa. Senza la prostata, verosimilmente in una condizione di fisiologica capacità riproduttiva non ci saremmo. Certo. Perché la prostata di per sé ha il ruolo fondamentale di produrre gran parte di quello che è il liquido seminale, all'interno del quale i nostri spermatozoi riescono sostanzialmente a essere veicolati, a godere di buona salute fino a quando non arrivano ad espletare il loro compito. Una prostata mancante impedirebbe una fisiologica riproduzione. Certo. Quindi è fondamentale che ci sia. È molto curioso quello a cui faceva riferimento sul dottor io c'ho la prostata, perché è assolutamente classico che arrivino ragazzi o uomini adulti o di mezza età o piuttosto che anziani dicendo io ho la prostata, e noi siamo soliti dire per fortuna. Esatto. Allora qual è il problema? Certo. 800 24 0024 se avete la prostata, oppure se, come spesso capita, il dottor Salonia me lo confermerà, volete parlare della prostata di vostro marito, perché gli uomini sono sempre un po' timidi in questo. Perché, dottor Salonia, spesso siamo noi donne a dover affrontare questo tema? Sì, questo vale per tutto quello che è l'ambito urogenitale, che riguarda la sessualità, la riproduzione, il benessere e lo stato di benessere urologico. Per cui per noi maschietti parlare di qualcosa che è inerente a prostata, genitali e quant'altro è sempre un po' svilente, oppure ci mette nella condizione di essere meno virili. È un ambito difficilissimo dove l'ego diventa veramente, veramente messo a dura prova. Ed è molto classico il fatto che in ambulatorio arrivi una coppia più o meno consolidata, perché non è detto che siano coppie consolidate da molto, dove la lei della coppia parla del problema della prostata del lui della coppia. È estremamente frequente. Allora, l'invito è sì uomo, parla della tua prostata. Dottor Salonia, possiamo dire così? Dovremmo dirlo. In realtà dovremmo proprio dirlo, perché la prostata, che è un po' uno specchio del... non possiamo dire che sia il barometro della salute maschile, perché non è così, ma è uno specchio dello stato di salute dell'apparato urogenitale, questo possiamo dirlo, ed è strettamente correlato alla capacità riproduttiva, alla capacità sessuale e alla capacità urologica in genere, cioè alla capacità di far pipì, in modo brutalmente detto. Bravo, che mi piace, perché la pipì bisogna farla. E bisogna farla per forza di cose. Molto spesso è talmente importante lo stato di salute della prostata da inficiare la qualità di vita dell'individuo, non già perché non riesca a riprodursi o ad avere rapporti, ma proprio perché il problema devo urinare diventa il problema fondamentale della sua vita. Inficiandone la qualità di vita diurna, la notturna poi non parliamone, per cui fatti vedere la prostata, mantienili in salute, diventa o dovrebbe diventare un motto, questo sì. Allora, andiamo subito a sentire i nostri ascoltatori come si sentono coinvolti attorno a questo problema. Dottore, lei è d'accordo? Nicoletta anche? Assolutamente sì. Leggo subito quello che ha scritto Patrizio. Dai. È per te, eh? Io non c'entro nulla. Cara Nicoletta, ma sei venuta a Livorno per il bagno dell'Immacolata? No. Io sono entrato in acqua fino alla prostata. Gli fa bene il freddo, dottore? Allora, mi tenga da conto questo Patrizio, che ci adora e noi lo dobbiamo tenere caro. Non è l'unico peraltro che in questa zona adotta queste pratiche, tra l'altro loro sostengono che lo fanno per prevenire l'influenza invernale, però... Aiuto, io sono molto meno coraggioso e non riuscirei a farlo. Da un punto di vista scientifico è molto difficile valutare una correlazione diretta tra temperatura e salute prostatica. L'unica reale correlazione che noi abbiamo e che è fisiologica nella nostra corporeità è il fatto che i nostri testicoli debbano stare ad una determinata temperatura al di fuori del corpo, circa un grado in meno. Il fatto che la prostata venga raffreddata da bagni o da semicupi freddi è un po' difficile da correlare a uno stato. Insomma, i gioielli di famiglia vanno tenuti un po' al calduccio. Assolutamente sì. 800 24 00 24, c'è Roberto Scaltritti che se la ride, certo, ma arriveremo anche lui alla prostata, perché hai qualche notizia di prima mano sulla tua prostata, perché voglio dire, non è un problema che riguarda per solo vecchi, ci sono ogni prostata alla sua età, vero? No, quello che è curioso poi, e sul quale magari interrogerò il nostro medico questa mattina più tardi, è se, come per la donna si fa prevenzione per il cancro con i controlli annuali al seno e non solo, se anche per la prostata poi vale lo stesso discorso. Certo. Vuoi sentire Giuseppe da Firenze? Vorrei sentire Giuseppe da Firenze e poi vorrei parlare soprattutto dei fattori protettivi, prima dei segnali che possono indurci a occuparci, per noi donne, della salute della prostata del nostro compagno, come stanno scrivendo alcuni ascoltatori. Ne ho parlato con mia moglie perché avevo paura, poi era tutto a posto. Andiamo da Giuseppe che ci chiama da Firenze. Buongiorno. Buongiorno, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno a lei. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, siete bravissime. Grazie Giuseppe. Allora, un chiarimento. Allora, io ho ripreso ad andare in bicicletta da qualche mese, cosa che facevo fino a qualche anno fa. E appunto ora mi sono avvicinato ai 50, volevo sapere se esiste, io ho una sella già per la bicicletta che a detta di qualcuno, quella con l'apertura sotto, diciamo, con quella fessura che permette di raffreddare in un certo senso di e far sì che non si raggiunga una temperatura stando 2 o 3 ore sulla sella, diciamo, più in area delicata, diciamo. Ecco, e quindi volevo sapere se queste selle vanno bene, funzionano, oppure sono tutta una cosa che, diciamo, potrebbe anche non servire, perché poi hanno dei costi anche più elevati. Quanto costano? Quanto l'ha pagata Giuseppe la sua? Mi tolga una curiosità. Allora, la mia me l'ha regalata un amico qualche anno fa, per dir la verità. Però siccome lui ne ha un tipo addirittura che è divisa in due, è come se fosse una sella divisa in due, ha un canale centrale che permette per quindi maggiore reazione. E ce ne sono vari tipi. Qualcuno, un collega che fa triathlon per esempio, mi ha detto che addirittura per ogni anatomicamente sono fatti diversi, e quindi ce ne vorrebbe una proprio su misura. Apriamo anche la strada a questo business, dottor che ci mancava. Dottor Saloni, esatto. Aspetti lì che il dottor Saloni le risponde, per quello che ne sa naturalmente, no, di certo. Anche come conformazione di selle, di biciclette, no, non di prostata, ma come dire, della morfologia della sella della bicicletta. Lo studio della morfologia delle selle è uno studio che ormai possiamo addirittura dire datato, perché sono vari anni che se ne parla. Se ne è parlato soprattutto negli ultimi 10 anni, quando una correlazione molto forte è stata osservata tra benessere sessuale e ciclismo amatoriale, dove sembrava che i ciclisti amatoriali, i ciclisti della domenica, che in Italia sono molti per fortuna, fondamentalmente soffrissero con maggiore probabilità di disordine dell'erezione. Quando poi si è capito che i disordini dell'erezione dei ciclisti amatoriali spesso erano correlati allo stato di salute della prostata, boom ed esplosione anche di tutta questa linea di ricerca delle varie ditte che se ne sono occupate. Esiste certamente una correlazione forte tra la morfologia, cioè la forma della sella, e lo stato di benessere prostatico. Le due selle a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore fondamentalmente sono due tra le più comuni, ce n'è una con un alloggiamento, che non bisogna pensare all'alloggiamento della prostata, la prostata non viene alloggiata all'interno del vano, ma fondamentalmente si esercita minore pressione per minor tempo, e questo giustifica uno stato di benessere maggiore. La stessa sella suddivisa in due porzioni parte dallo stesso principio. Non vi so dare dei costi, ma certamente anche dietro questo ambito troviamo un business non indifferente. Beh, giustamente, tra l'altro Sandro, a completamento di tutto questo ragionamento, ci spiega, ci racconta che ci sono anche delle selle in gel che si adattano anatomicamente, esatto, ad ogni persona. Certo che siete complicati, dottor Saloni. Ha fatto un altro sport, santo cielo. È difficile fare... Dunque, partiamo dall'idea che stiamo parlando di un ambito molto intimo. Se dovessimo trasferirlo all'emisfero femminile, la stessa cosa mi verrebbe da altro dire. Che... Ecco. Dottore, come? Io ho smesso di fare spinning perché proprio... No, mi verrebbe da dire, me. Noi siamo pronte. Per quel motivo là. Esatto. E infatti, 800 24 00 24. Dottor Salonia, vogliamo parlare anche di prevenzione? E io inizierei dalla dieta, perché numerose ricerche sottolineano il ruolo protettivo e preventivo della dieta mediterranea. Sì. Allora... Mi permetto di fare una piccolissima premessa. Certo. La prevenzione a cui lei fa riferimento si definisce prevenzione primaria, perché è quella finalizzata a tentare di ridurre l'occorrenza, cioè lo sviluppo della malattia. Ed è certamente correlata a una dieta mediterranea, tanto che i dati sembrerebbero dimostrare come la dieta mediterranea di per sé aiuti lo stato di salute generale dell'individuo e anche lo stato di salute urogenitale. Questo è vero ancora una volta per l'aspetto della sessualità, l'aspetto della riproduzione, che sono i due ambiti dove maggiormente si sta studiando, e ovviamente ancor più interessante l'aspetto prostatico. Ci sono dei cibi che sembrerebbero peculiare della dieta mediterranea che sembrerebbero proprio correlati a uno stato di benessere prostatico. Quali sono? Ecco, uno di tutti, il pomodoro ad esempio, il cui contenuto in licopeni sembrerebbe essere correlato con una sicura prevenzione primaria. Mi permetto di sottolineare però che il concetto di sicuro in ambito clinico, quindi quando parliamo di uomo, quindi di essere umano, è sempre da prendere un po' con le pinze, perché non è detto che ho o seguo una dieta squisitamente mediterranea non mi verrà mai un tumore prostatico. Questo purtroppo non è possibile dirlo. Esistono numerose linee di ricerca, questa volta di base, quindi preclinica, che ci dicono sull'animale d'esperimento o sulle cellule io avrò la possibilità di utilizzare determinati componenti di cibi, utilizzare determinati elementi di supplemento alla dieta che sono protettivi. Tradotto tutto questo nell'uomo, il dato di correlazione non è così forte, cioè è certo vero che la dieta mediterranea è protettiva, e nella dieta ho fatto prima menzione al pomodoro, banalmente per noi italiani il vino rosso è protettivo, lo sono in parte le fave, siamo meno abituati a utilizzare soia e derivati della soia che sono più caratteristici delle popolazioni del sud-est asiatico, ma anche quelli sembrerebbero essere protettivi, lo è ad esempio il tè verde, non siamo particolarmente proni a utilizzare il tè verde, ma tutti questi elementi fanno, almeno in ambito preclinico, quindi nella maniera di esperimento e in parte anche in ambito clinico, prevenzione primaria. Questo è un dato di certezza. Si è molto parlato, ad esempio, del livello di correlazione tra le carni rosse e le carni o i grassi, espressione di barbecue, piuttosto che certo, di carni arrostite, piuttosto che. Esistono dati molto forti di correlazione, ad esempio, con i tumori dell'intestino. I dati sono assolutamente meno forti per il tumore prostatico. 800 24 0024. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare. Hai capito? Lo dice il British Medical Journal. Sì. Allora, dottor Salonia, Grillo naturalmente come sempre non ci gira intorno relativamente ai concetti che vuole esprimere, ma come dire, l'osservazione è pertinente. Devo dire che ce la stanno proponendo anche molti ascoltatori, oltre al numero verde anche al 349-238-6666. Riassumo le osservazioni di tutti con la domanda di Lino: l'attività sessuale favorisce o no la salute della prostata? È un'osservazione assolutamente peculiare, e anche qui la medicina dà delle risposte non sempre univoche, se posso essere onesto. Infatti ce n'è un altro di ascoltatore che racconta la sua esperienza in un messaggio molto lungo e ha avuto proprio su questo punto interpretazioni e diagnosi, diciamo, diverse da parte di diversi suoi colleghi. È sicuramente vero, se solo immaginate che circa 10 anni fa, nel 2004, una delle riviste internazionali, ovviamente americana, tra le più quotate, JAMA, pubblicava un lavoro dove ci si chiedeva se eiaculare tanto potesse essere addirittura promotore di induzione di tumore prostatico. E alla fine di questo loro lavoro, molto elegante peraltro, dimostrarono che non esiste correlazione alcuna tra il numero di eiaculazioni e un maggior rischio. Questo solo per dirvi che purtroppo c'è una correlazione fortissima tra sessualità e stato di benessere prostatico. Quello che sappiamo è che a prostata malata, ma non per tumore, a prostata in cattivo benessere, infiammazione, ingrossamento e quant'altro, corrisponde certamente una sessualità meno valida. Meno valida l'erezione, meno valida l'eiaculazione. Quindi che orecchie per intendere. Esatto, non abbiate paura di parlarne con le vostre mogli, perché probabilmente loro se ne sono già accorte che c'è qualche problemino. Abbiamo poi Donato che ci chiama da Bergamo, sì, ed Emanuele da Ancona. Eccolo là, l'anconetano naturalmente. Ma noi dobbiamo salutarci perché tu devi parlare. Ma solo per pochi istanti, faccio dei mercati brevissimi, a tra poco. Cuore e denari. E siamo tornati insieme. Oggi parliamo della ghiandola virile per eccellenza, una ghiandola che spesso genera molte preoccupazioni nel sesso maschile. C'è chi proprio evita di affrontare il tema, il problema. La ragione è evidente, dato che dall'attività di questa ghiandola dipende anche la salute sessuale. Ne parleremo e ne stiamo parlando insieme al nostro ospite, il dottor Andrea Salonia, urologo e andrologo al San Raffaele di Milano. E noi tra l'altro affronteremo questo problema anche da un punto di vista diverso più tardi. La storia che ha attirato la nostra attenzione è stata quella del presidente francese Hollande, che avendo un problema alla prostata non ha voluto dirlo alla nazione. Non è la prima volta che capita in Francia, ma probabilmente molti di noi conosceremo qualcuno che ha un problema di salute che non vuole renderlo pubblico, non vuole rendere pubblico tra i familiari, non vuole renderlo pubblico sul lavoro. È giusto? Quanto, fino a quanto deve spingersi naturalmente la privacy? Ne parleremo tra qualche istante più tardi. Sì. A proposito della prostata di Hollande, dottor Salonia, l'Eliseo ha parlato di un intervento benigno, senza conseguenze, vogliamo crederci, ci auguriamo che sia la verità, ma che cos'è un intervento benigno? Quell'aggettivo è riferito alla causa che ha portato l'intervento o all'esito? No, quello è riferito alla causa che ha portato l'intervento. Quando parliamo, o meglio, quando un paziente viene in ambulatorio e dice io ho la prostata, tornando al nostro detto iniziale, fa riferimento in linea generale allo stato di salute della prostata dal punto di vista benigno, che vuol dire una prostata che dà dei disturbi, delle difficoltà, procura dei problemi nell'urinare. E questo è generalmente considerato benigno, una prostata che si ingrossa o che si infiamma e che rende urinare molto più difficile. Proprio su questo punto c'è una domanda di un ascoltatore all'800 24 00 24, Donato da Bergamo, che salutiamo. Buongiorno. Sì, buongiorno e grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Ecco, volevo chiedere al dottore, io ho proprio un problema, ma non nell'urinare, anzi io diciamo lo faccio e molto, forse anche troppo. Nel senso, mi capita di farlo appena fatto, anche dopo mezz'ora mi rivenga lo stimolo. Siccome so che può essere correlato qualche problema di prostata, però non è che mi faccia, non è molto elegante, mi dispiace il contenuto, però tante, cioè non è che faccia poca urina, lo faccio proprio spesso. Spesso. Va bene, la pipì poi è una cosa che facciamo tutti, Donato. Io direi di liberarci di queste cose. Esatto, è trasversalissima. La facciamo anche Deborah e io, pensi lei. Pensi un po' lei. Dottor Salonia. Beh, vorrei dire per fortuna la facciamo tutti. Certo. Perché nel momento in cui non dovessimo fare, realmente insorgerebbero problemi, e gravi peraltro. Quello che il signor Donato ci ha appena detto è probabilmente l'elemento che manda il paziente dall'urologo, perché è classicamente associato alla prostata, o quantomeno è uno dei segni più caratteristici e dei sintomi più caratteristici dei disordini prostatici, che si distinguono proprio in una fase che noi chiamiamo di riempimento. Ad esempio, devo andare molto più frequentemente, devo andare più volte durante la notte e questo disturba il mio sonno, devo andare con una certa urgenza, non riesco a procrastinare lo stimolo, per cui devo andare immediatamente, oppure devo andare così frequentemente che non decorrono neppure 2 o 3 ore dalla menzione precedente che un nuovo stimolo mi porti in bagno. Questo è molto classico, quanto al contrario tutte le persone ritengono che prostata che non sta bene significhi non riesco a fare la pipì, vado poco e ho un getto che mi cade sui piedi. In entrambi questi due gruppi di disturbi sono peculiari della cosiddetta prostata benigna. Anche qui bisogna fare un piccolo inciso: benigna perché noi sappiamo che i disturbi sono associati a un ingrossamento della prostata, purtroppo non si distinguono dagli eventuali disturbi associati a un problema maligno della prostata, ed è per quello che diventa importante l'aspetto preventivo sullo stato di malignità. Ma quanto il signor Donato ci ha detto è caratteristico dello stato di benessere della prostata. Abbiamo Emanuele D'Ancona e Giulia che forse hanno delle domande simili. Sì. Le facciamo fare tutte e due insieme? Va bene, dai, andiamo. Emanuele, veloce, grazie, buongiorno. Perché di Ancona, Emanuele. Ecco, Deborah fa delle preferenze. Buongiorno a tutti, la mia domanda era riguardante se al di fuori dell'analisi ci può essere qualche patologia sulla prostata che non è rilevabile dalle analisi, perché io avevo dei disturbi di eiaculazione precoce e di dolore se non eiaculavo per qualche giorno, la dottoressa mi ha fatto fare le analisi, dell'analisi è tutto a posto, quindi ha detto è tutto a posto. Dottore, è assolutamente vero, si chiama quello a cui faceva riferimento il malato eiaculazione precoce secondaria, ed è secondario ad uno stato infiammatorio della prostata molto spesso, o dell'area urogenitale, e purtroppo lui ha ragione, non è certo detto che ci siano esami positivi, dove per positivi intendo che denotino un problema specifico. Molto spesso, purtroppo, la nostra è una prostata peraltro che si è nascosta in una posizione non facilmente aggredibile, e quindi rende molto più complesso il valutarla. Però lo stato infiammatorio spesso porta ad un'eiaculazione quale quella che il signore appena descriveva. Andiamo a Bologna, c'è Giulia. Sì, forse chissà se buongiorno. Ha una situazione simile. Giulia. Giulia, buongiorno. Giulia? Giulia, scappa. Sì, ci sente? Siamo qua. Giulia. Allora, ripeschiamo Giulia, questa tele... c'è, ma non riusciamo a sentirla. Io approfittavo di questo recupero per parlare di controlli. Dottore, ancora oggi la cartina tornasole della salute della prostata è il PSA, antigene prostatico specifico, che viene tutt'oggi considerato un importante marcatore tumorale. Ma da sempre però si dibatte sulla natura ambivalente di questo test, che se da un lato è vero, ha permesso di salvare molte vite, anche d'altro canto creato il rischio di un eccesso di terapia. E vorrei allora un po' approfondire questo aspetto, insomma il PSA della discordia. Noi avevamo proprio dedicato una puntata a questo marcatore, che divide un po', o sbaglio? Assolutamente sì, allo stesso tempo tutto quello che lei ha appena detto risulta ad oggi ancora fondamentale. È il marcatore per eccellenza, è la metodica per eccellenza per fare prevenzione secondaria, e non solo, è ciò che permette di avere in un solo esame uno stato di salute della prostata. Purtroppo non è un marcatore tumore specifico, è un marcatore specifico dell'organo, quindi della nostra ghiandola. Quello che è cambiato nel corso degli ultimi anni è il modo in cui viene interpretato il fine per il quale viene dosato il PSA. Questo è molto importante e mi ha fatto molto piacere che lei abbia detto un eccesso di terapia, un eccesso di trattamento potenziale, non un eccesso di diagnosi, perché il PSA permette di andare a fare diagnosi di malattia. Una volta che io ho una diagnosi di una malattia, benigna o maligna che sia, posso decidere insieme alla mia scienza di base, ma soprattutto al paziente che ho di fronte, quale tipo di terapia sia per lui più corretta. Avere una diagnosi non significa per forza di cose dover fare una terapia, talvolta questo non serve, ed è proprio in questo che è cambiato il modo di fare scienza e medicina legato allo stato di salute della prostata negli ultimi anni. Vi faccio un esempio molto banale: un tempo si riteneva che la prostata, quando si dovesse ammalare, fosse caratteristica di un uomo anziano. Non è così. Si riteneva che una prostata ammalata non portasse a morte. Non è così. Noi sappiamo molto bene che la prostata l'abbiamo per fortuna fin da quando si nasce, che al pari del processo di invecchiamento dell'individuo invecchia anche la sua prostata, e sappiamo oggi che un punto fondamentale dell'età del maschio è compreso tra i 40 e i 45 anni, dove vale la pena di fare una valutazione del PSA. Sappiamo bene che un valore di PSA oggi pari o inferiore a 1 attorno ai 40-45 anni ci permetterà di dire, beh, più o meno per i 10 anni successivi sei tranquillo, non hai bisogno di fare un altro valore del PSA, di un altro dosaggio. E sappiamo anche che nell'arco dei successivi 20-25 anni la probabilità che quell'uomo con un valore così basso da giovane abbia una malattia aggressiva o una malattia in toto è molto più bassa. Bisogna prenderne consapevolezza. Ehi, che cos'ha lì, Stewie? Oh, mustache aficionado. Wow, guardate questi uomini, che classe, che stile. E tutto per merito di qualche peletto sul labbro. Lois, ho deciso di farmi crescere i baffi. Baffi, baffi, voi vi chiederete che cosa hanno a che fare con la prostata. Hanno molto a che fare con la prostata. Ce lo racconta un amico che è in linea con noi. Abbiamo il piacere. E che amico, direi. E che... Perché siamo due donne fortunate. È vero. Mauro Bergamasco. Ciao, Mauro. Mauro, buongiorno. Ciao, buongiorno, benvenuto. Nicoletta. Buongiorno, Deborah. Ciao. Senti, ma voglio dirti, prima di parlare dei baffi, che sì. Deborah ha mandato subito una foto sì. su Facebook. Sì, che vabbè. Ha fatto insieme con tuo fratello. No, no, no, anche con lui. Anche con lui. Ma sì, quando avete giocato con la Nuova Zelanda a Milano, nel 3 anni fa, Mauro? Sì, più o meno, sì. Sì, infatti, vabbè. Ecco, quindi tutto questo era per dirti che devi venire qua perché la foto bisogna rifarla. Ecco qua, perché ci siamo... Tu sei rimasto bello come sempre, io mi sono invecchiata, quindi però dobbiamo aggiornarla. Senti, Mauro, c'è chi i baffi li porta tutto l'anno e c'è chi invece se li fa crescere solo in un mese, a novembre, come fai tu. Ma adesso andiamo un attimo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Intanto, magari nel frattempo, chissà se i nostri ascoltatori sanno che cosa... Lega, esatto, i campioni e la prevenzione. Rugbisti anche. E prevenzione. A tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovate in diretta, parliamo di un mese delicato, è passato ormai, ma siamo sempre in tempo per parlare di questi argomenti, per parlare di prevenzione, dei problemi legati appunto alla prostata, e i campioni si mettono in gioco su queste tematiche. Allora, ritorniamo al nostro Mauro Bergamasco. Che cosa fate in novembre, Mauro? Guarda, in novembre si trasforma, la prova si trasforma, diventa Movember, quindi è il mese così della moustache, del baffo. Movember è una stazione, un movimento internazionale nato in Australia per l'esattezza, che supporta da tantissimi anni appunto la ricerca contro il cancro alla prostata per l'esattezza. Quindi giustamente nel mese di novembre, dopo aver fatto una tenda rasatura l'ultimo giorno di ottobre, insomma, si lasciano crescere i baffi, un cambio quasi fisionomico per alcuni, che ovviamente aiutano a sopportare questa lotta. È certo, un modo per affrontare una tematica estremamente seria in maniera scherzosa, perché chiaramente la prevenzione va fatta anche un po' così, no Mauro? Voi che ne pensate, fra voi colleghi anche campioni di questi temi? Sì, per noi l'importante è, insomma, attraverso la nostra immagine e il nostro sport, veicolare, insomma, rendere sensibili tutte le persone che stanno attorno, ecco, a questa problematica, certo, che è chiara, questa come tante altre, in questo anche caso, perché Movember... i rugbyisti sono guarda, molto coinvolgenti, diciamo. Te li sei tagliati adesso, Mauro? O no, io ancora, perché trovo che mi danno un tocco di francesismo, visto che ho abitato in Francia per tanti anni. No, hai capito, ce li ho ancora comunque. Sì, benissimo, tuo fratello? Tuo fratello l'ha tolti? Mirko adesso sta pensando di crescere la barba, cioè, questo look... Siete... un po' più così, così. sempre belli sono, oltre che grandi campioni. Viaggio sì. con Mauro Bergamasco praticamente ogni giorno in metropolitana, e io voglio ringraziarlo perché tu sei anche testimonial della campagna di sensibilizzazione contro la violenza domestica. Bravo, Mauro. Che è una campagna bellissima, perché usa proprio metafore sportive per rimandare. Esattamente. Vero? La cosa fondamentale, come così in Movember, come nella campagna di cui stai parlando, ovviamente l'importante è riuscire a comunicare con i principi, con i valori che fanno parte di noi tutti i giorni, sia nella vita che nello sport, riuscire a comunicare un messaggio, perché la cosa fondamentale è riuscire ovviamente ad entrare in sintonia con le persone. Quindi se questo è il messaggio che passa, forse è il veicolo più semplice, no? Per arrivare così in qualche maniera alla sensibilità delle persone. Un campione a 360 gradi. Che cos'altro si può dire di più di questi ragazzi? Vieni a trovarci Mauro, e parleremo anche dell'attività sportiva, magari di quella appunto che praticate voi, che è sempre più coinvolgente per molti ragazzi, e quindi ci piace. Grazie. Tra l'altro se posso così, provarvi un secondo, tra l'altro questo mese di novembre, attraverso i giocatori della nazionale e Gira, che giocatori d'Italia, rivisti associati, l'associazione nuova dei giocatori nata da 1 anno e mezzo, per supportare giustamente la parola supporto e sostegno, è una cosa fondamentale. Il nostro sport, così come all'esterno appunto del campo di gioco, abbiamo creato una maglia per beneficenza, i cui fondi che insomma riusciamo a raccogliere verranno ovviamente devoluti a Movember International, quella che dicevo prima, fondati in Australia appunto per il sostegno. Benissimo, facci sapere come possiamo aiutarvi. Mi raccomando. Grazie. Mauro, un'ultima cosa, poi ti lasciamo. Noi adesso affronteremo il tema della privacy legata alle questioni di salute che naturalmente possono coinvolgere e coinvolgono mediamente certo. ognuno di noi. Molte persone fanno fatica a rendere note giustamente appunto le problematiche che può vivere. È capitata ad Hollande che giustamente lui dice: sono un capo di Stato alla nazione e non voglio far sapere quello che mi sta succedendo perché potrebbero vedermi in maniera diversa o chiaramente magari il consenso certo. può cambiare. Però i francesi sono già stati scottati, Mauro, da queste situazioni. Ma io in Francia lo ecco, sai bene. Esatto, ma insomma è tanto difficile parlare di queste cose anche proprio fra voi maschi, fra voi così uomini un po' avete queste immagini dello così spogliatoio forte. Esatto. Ma sai, credo che in alcuni casi o in patologie come questa credo che sia stata anche un po' la virilità, no, della persona, sì. la virilità del maschio in questo caso, quindi capisco la difficoltà che c'è nel parlare di questi argomenti in maniera così proprio approfondita. La privacy penso che sia una cosa sacrosanta, penso che le persone siano abbiano questo diritto di poter comunque soffrire e gioire delle proprie cose in maniera così personale con i propri cari attorno, quindi anche in questo caso posso capire il presidente francese insomma che vuole un po' mantenere forse nascosta questa cosa, comunque non vuole che se ne parli troppo. Ovviamente lì poi si complica il fatto certo. che comunque a livello politico ovviamente possono vederlo in maniera un po' più magari più debole del solito e magari approfittarne, come ovviamente. Si dice noblesse oblige, eccola, no? Esatto. Mauro, grazie. Ciao, Mauro, grazie ancora per essere stato con noi, grazie. Buona voi, giornata, a presto. Ecco l'immagine dei giocatori di rugby nello spogliatoio che tu mi hai evocato, mannaggia te. Dottor Salogna, beh, avete un bel alleato, no? Sì. Abbiamo un bellissimo alleato. Mi sono piaciute molto le parole del nostro sportivo perché mi dà là due concetti molto veloci. Il primo, loro sono persone estremamente giovani e si parla di prostata in persone giovani che tentano di aiutare lo stato di salute prostatica fondamentalmente raccogliendo fondi, e questo dal mio punto di vista è importante. La prostata non è un organo degli anziani, questo è importantissimo. E l'altra cosa che lui ha detto alla fine, relativa al concetto di privacy, nell'ambito della sfera urogenitale questo diventa ancora più importante. Se voi pensate che è molto più facile parlare di tumore alla mammella che non di tumore alla prostata certo. o di tumore di un testicolo o tumore del pene, e le problematiche della sfera urogenitale al maschile sono probabilmente tra le meno diffuse in termini proprio di divulgazione del problema. Per questo ne parliamo oggi. Noi la ringraziamo, grazie, dottor Salogna, per averci aiutato a toccare un tema che di prevenzione importantissimo ma spesso taciuto, proprio perché si viene bloccati da quella sorta di imbarazzo che però non giova a nessuno. Dottor Salogna, grazie ancora. Grazie a voi. Complimenti, grazie davvero, soprattutto, buona giornata. Complimenti soprattutto per la sua chiarezza. E allora, la privacy è sacrosanta e lo diceva con grande vigore Mauro Bergamasco poco fa, e però bisogna vedere se ci sono anche delle situazioni nella quale la privacy, come dire, conta un po' meno, nel senso che certe problematiche vanno rese note, oppure quanto anche l'esterno può spingerci nel, come dire, abbatterla in qualche maniera. Luca Bolognini è presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, buongiorno. Tra l'altro adesso noi stiamo andando verso la prossima pausa, dottor Bolognini, per cui la spremeremo a dovere nella seconda parte del programma tra le 12.10 e le 12.30, però subito... Vedi, mi sembra, mi vedo già un limone spremuto. Un limone spremuto, la salverò io, dottor Bolognini, ma non ci racconterà preoccupi. Cose interessanti. Non c'è problema. Che ne pensa solo rapidamente del caso di Hollande e poi andremo alle casistiche, diciamo, più diffuse che sono quelle di noi comuni mortali. Abbiamo... Sì, no, 40 secondi di tempo. Via. Il caso, beh, è un caso classico di persona nota con particolare rilevanza sociale o pubblica, e quindi su questo tipo di persone si può sapere qualcosa di più. È giusto sapere qualcosa di più sulla loro salute, addirittura anche su qualcos'altro. Quindi rivendicare al 100% la sua privacy, diciamo che Hollande aveva sì e no diritto di poterlo fare. Beh, diciamo che naturalmente per questo genere di persone c'è meno spazio di tutela e naturalmente il limite è la loro dignità, cioè questo non significa che si possa calpestare la loro dignità. E allora raccontateci, se avete voglia, quei casi in cui magari all'interno di un ospedale avete ritenuto che la privacy non fosse stata nella maniera appunto corretta, rispettata e tutelata. 800 24 00 24 per parlare di tutto questo dopo il giornale radio. Cuore e denari. Eccoci ritrovate, cara Nicoletta, buongiorno a tutti. Buongiorno anche al nostro esperto che ci accompagna nell'ultima parte della nostra trasmissione per parlare di privacy. Lo risalutiamo, Deborah. Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano della Privacy, ancora buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, siamo partiti parlando del caso del presidente francese Hollande, che ha dovuto rendere nota alla nazione la sua esperienza di tumore alla prostata. Trattandosi di un capo di Stato, è quasi inevitabile che queste notizie vengano rese di dominio pubblico. Probabilmente non gli avrà fatto piacere, umanamente parlando, però ci sono persone per cui le regole generali della privacy non valgono come per tutti. Pensando a noi comuni mortali, nella seconda parte della trasmissione di oggi appunto affrontiamo il tema della privacy legata allo stato di salute nella vita di tutti i giorni. Insomma, se non siamo un capo di Stato, un grande dirigente d'azienda, quando siamo tenuti a comunicare delle informazioni, e quando invece possiamo far leva sull'istituto della privacy per non divulgare i nostri fatti, le nostre notizie personali. Il tema è particolarmente delicato nel mondo del lavoro, ma non crediatelo, è anche in famiglia, e in ogni caso è bene conoscere gli strumenti di cui disponiamo per difenderci e tutelarci. E allora andiamo. Salva Danaio. Ehi. Cosa? Niente. Che c'è? Senti, voglio dirti una cosa. Però se te la dico, devi giurare di non dirla a nessuno. Lo prometto. Allora, Miranda è rimasta incinta e tre Charlotte a pezzi perché cercava con tutte le forze di rimanere incinta, e te lo puoi figurare. È una catastrofe totale. Sex and the City sembra una grande fonte per noi, per miniera, ispirazioni. Devo dire, una miniera. E allora, Luca Bolognini, appunto presidente dell'Istituto Italiano della Privacy, si può commentare con noi anche, Nicoletta, alcuni dati che sono stati diffusi recentemente dal Censis? Intanto direi di partire di qui, a parte la questione Hollande. Pare che gli italiani siano molto gelosi della loro privacy, insomma siamo tutti un po' Hollande, ma solo il 40,8% pensa a tutelarla, soprattutto su internet. Esatto. È quello che rivela il Censis. Ci sono anche altri dati, ma possiamo dire che gli italiani hanno sicuramente ben chiaro il valore della privacy e sono sempre portati a dire agli altri i fatti tuoi, ma poi non riflettono sui comportamenti, sugli strumenti idonei a proteggerla. E quindi, per esempio, non voglio che si sappia che ho un problema di salute, ma magari, dottor Bolognini, lo scrivo su Facebook. Purtroppo certe cose vengono naturali. Mentre parlavate pensavo a quanti vanno in automobile. Se si chiedesse a tutti gli automobilisti quanto si tiene alla sua salute, qualsiasi automobilista probabilmente risponderebbe ci tengo moltissimo. Però mentre si guida certe volte non ci si pensa così tanto, perché si sta nel comfort di un abitacolo. Allora è un po' simile quello che accade con la privacy. Se facciamo mente locale e ci viene chiesto quanto ci teniamo, rispondiamo tanto, ci teniamo moltissimo. Nella vita di tutti i giorni condividiamo una quantità di informazioni impressionante e non ce ne rendiamo conto, oppure accettiamo anche di buon grado che ci siano aziende che si profilano, che si analizzano, il tutto avviene in silenzio, si può dire quasi occhio non vede, cuor non vuole, certo. Per stare nel tema della trasmissione. A proposito di cuore, vedi com'è carino? Hai visto? Bravo! Ma mica l'abbiamo scelto a caso, oltretutto che voce, eh? Visto che gli ascoltatori ci fanno sempre i complimenti sulla voce, noi scegliamo anche degli ospiti che possano accompagnarci in questo vocalizzo generale. Dottore Bolognini, anzi lo dovrei chiamare avvocato per la verità, coinvolgerei anche gli ascoltatori su questo problema. Ricordiamo il nostro numero verde 800 24 00 24. Da ora, sì, al termine del programma fateci le vostre domande sul tema salute e privacy. Magari, non so, vi è capitato che un'informazione delicata relativa alla salute vostra o di qualcuno a voi caro vi sfuggisse di mano per via di una falla nella vostra rete di protezione? Oppure può essere capitato che un'influenza vi abbia fatto giocare un'opportunità di lavoro facendo scegliere un collega al posto vostro per un'importante trasferta? Oppure la gravidanza che non volevate comunicare per scaramanzia, ma è subito finita sulla bocca di tutti perché magari vostra zia l'ha messa appunto su Facebook. Dottor Bolognini, avvocato Bolognini, ci dica con grande chiarezza appunto la questione della salute e la privacy. Fino, per esempio, andiamo subito all'ambiente di lavoro. Quando devo comunicare alle persone che lavorano con me, soprattutto al mio datore di lavoro, che ho una condizione di salute piuttosto problematica, perché è chiaro che l'influenza non è rilevante ai fini della discussione di questa mattina, ma il problema di salute è rilevante. Quanto deve essere difeso dalla privacy in ambiente rapporti di lavoro? Ma guardate, il caso della malattia che ci impedisce di lavorare o che ci può impedire più volte di lavorare con assenze continue va subito comunicato, normalmente ci sono obblighi normativi e nei contratti collettivi va subito comunicato al datore di lavoro. Una cosa però è dire al proprio datore di lavoro e certificarlo peraltro, ho un problema di salute che mi impedisce di lavorare, sì. E un'altra cosa è dire quale sia questo problema. Questa seconda informazione, e quindi il dettaglio della diagnosi del nostro malanno, no, questa normalmente non deve arrivare fino al datore di lavoro. Il datore di lavoro deve accontentarsi di un avviso senza ritardo del fatto che sussiste un problema, ma senza entrare nel merito. Ci sono casi naturalmente di normative di settore per problematiche gravi che prevedono che invece anche il datore di lavoro in qualche modo venga informato della malattia o della disabilità del lavoratore e o comunque debba conoscere l'inidoneità del lavoratore a svolgere un determinato incarico. Ad esempio, in quali casi? Mi fa un esempio, ad esempio, il grande classico è quello del conduttore. Stavo parlando del conduttore radiofonico, naturalmente, di un problema. È chiaro che con un lavoro come il nostro dovremmo reciprocamente dircelo, Nicoletta. E assolutamente. Poi il resto, certo. Avvocato. Diciamo che un caso classico sono le tossicodipendenze. Mm. Abbiamo, per esempio, invece una legge che è la 135 del 90 sull'IV, sull'AIDS, che prevede determinati criteri che poi tra l'altro sono stati anche modificati dalla Corte Costituzionale nel 94, che ha addirittura proprio detto che quella legge non era costituzionale perché in un punto perché non prevedeva che vi fossero accertamenti sanitari sull'assenza di sieropositività come condizione per l'espletamento di determinate attività lavorative che mettono a rischio altre persone. Allora qui viene fuori il criterio da seguire. Questa malattia mette a rischio i terzi? Ah. È una malattia che in quella funzione, per quel tipo di lavoro, mette in pericolo la salute o addirittura la vita dei terzi? Questa è una domanda importante, certo, da porsi, e ci sono norme ad hoc. Quindi, come dire, ovviamente non si può fare di tutta l'erba un fascio, ci sono casi e casi quando chiaramente la violazione della privacy implica che si mettano in sicurezza le condizioni di altre persone, è chiaro che qui il discorso è diverso rispetto all'individualità. Intanto ci sono gli ascoltatori che si vogliono mettere in contatto con noi e noi apriamo naturalmente le porte del nostro salotto, esatto, e invitiamo Alessandro dalla provincia di Brescia che ci ha chiamato all'800 24 0024. Che non pone a cuore denario una questione di privacy e salute, ma una questione di privacy legata ad un altro ambito, ma l'avvocato Bolognini risponde volentieri ugualmente. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Sì. Buongiorno, sono un insegnante, sto chiamando da Brescia. Chiaramente non è strettamente legato al discorso privacy e lavoro, però si pone spesso questo problema. I ragazzi, volevo approfittare appunto del... Bravo, approfitti, mi piace. Soprattutto per i genitori, sì, che possono ascoltare. Il discorso è questo: molte volte quando si comunicano i voti ai ragazzi delle interrogazioni, i compiti in classe, l'interrogazione è evidente, ma il compito in classe, c'è chi invoca la privacy o privacy, che si voglia dire. Io dico, guardate che quella riguarda i dati sensibili, questo è semplicemente normale andamento della classe, gestione della classe, per far vedere anche la corrispondenza fra voto, valutazione e quant'altro. Volevo sapere dall'esperto se sbaglio, perché è vero anche che noi non possiamo pubblicare i voti 5 nei famosi tabelloni fine anno, però penso che all'interno della classe questo sia normale amministrazione di dati. Certo. Alessandro, lei fa poi come gli insegnanti che iniziano dal voto alto e poi scendono fino al 2. Mescolati. Avvocato Bolognini, allora, il tema del voto e del rendimento a scuola, le è mai capitato di doverlo affrontare? Anche se so che lei appunto ultimamente si occupa specificatamente invece della trattazione dei dati personali nelle strutture sanitarie e quant'altro. Ma intanto va detto che è un caso abbastanza atipico quello dei voti scolastici. Non esistono obblighi di segretezza dei voti scolastici, è giusto che siano trasparenti, è naturale che i vari studenti conoscano i voti dei loro colleghi. Quello che anche il Garante ha sottolineato in più occasioni è che non si forniscano invece, torniamo proprio al tema di oggi, informazioni per esempio sullo stato di salute degli studenti o altri dati che non siano strettamente pertinenti a quello che è per esempio appunto il voto, la valutazione dello studente. Quindi molta attenzione alle cosiddette prove differenziate che vengono sostenute da studenti portatori di handicap per esempio, molta attenzione a non indicare queste informazioni sui tabelloni, certo. Però sui voti stiamo tranquilli. I voti speriamo che siano buoni. Grazie ad Alessandro che ci ha chiamato dalla provincia di Brescia. Invece io vorrei leggere un messaggio che ci manda Selene al 349-238-6666. Ci scrive che una volta un'infermiera in un ospedale ha raccontato delle sue condizioni di salute per un piccolo intervento al suo ex fidanzato che era andato lì a trovarla. Non è successo nulla di grave. No, in realtà forse non era andato lì a trovarla. Passava di lì e lui ha chiesto informazioni. Se ho capito. Non è successo nulla, perché è un po' il messaggio è un po' lungo. Sì. Non è successo nulla di grave, dice, ma lei non ne aveva il diritto. Avvocato Bolognini, allora cosa ne pensa? Il personale di un ospedale, ecco, può informare. No, non si può informare i terzi quando anche si tratti i nostri familiari. Se non abbiamo detto sì. Se non abbiamo detto, voi potete informare sul mio stato di salute il terzo. Ecco, o ma il terzo. Quando avviene questo contatto con un professionista appunto dell'ospedale che viene a chiedere a chi si ricovera, oppure va lì per un altro tipo di accertamento, appunto, se possono essere divulgate le sue informazioni? Perché ringraziando il cielo a me non capita da un po' di andare in ospedale, quindi c'è proprio diciamo che deve essere chiesto al momento dell'accettazione. Ecco. Normalmente negli ospedali viene sottoposto un modulo che è il modulo privacy o comunque un'informativa e poi si chiedono i vari consensi. Tenete presente che non solo ovviamente non devo comunicare informazioni sanitarie ai terzi senza il consenso, ma in teoria senza il consenso non dovrei nemmeno rispondere sì è ricoverato, no non è ricoverato in questa struttura. Ho capito. Ma lei ha detto terzi, ha detto anche familiari, esatto, quindi vale per il fidanzato. Il fidanzato non è un parente ad esempio, no? Sì, anche familiari. Tenete presente che se il paziente è in grado di intendere di volere, sì, è il paziente che decide, siamo noi che decidiamo per i nostri dati. Altro è il discorso che il paziente non sia in grado di intendere di volere, non è in grado quindi di esprimere alcun consenso, e in questo caso il codice privacy è una delle legislazioni più avanzate, d'avanguardia, innovative, perché è del 2003, ma già dal 2003 si parla del fatto che si possa chiedere il consenso per esempio a un convivente. Oltre che a un prossimo congiunto, un familiare. Certo, e infatti no, è un tema molto importante questo per la questione delle famiglie, come dire, di fatto, che abbiamo toccato anche in altre trasmissioni. Tra l'altro, avvocato Bolognini, adesso uno si ricovera in condizioni di tranquillità, gli vengono sottoposti questi documenti che lui può firmare, magari può anche, non so, poi questo ce lo può dire lei, indicare le persone alle quali si possono divulgare informazioni o meno. In un caso grave invece, in cui chiaramente in un ricovero d'emergenza in cui nessuno ha tempo e modo e lucidità di firmare questi documenti, lì che cosa succede? Non c'è problema, si va avanti, non si chiedono consensi, non si rilascia l'informativa, si pensa a curare il paziente. Nell'emergenza dare in quel la caso la privacy viene dopo. Esatto, certo, se si presentano in 10 però al capezzale di questa persona. Sì, no, c'è un articolo ben preciso che è l'articolo 82 del codice privacy che prevede le emergenze. Perfetto. In sanità ovviamente. Mm-hmm. Beh, nel caso in cui si presentino in 10, lì qualche dubbio deve venire, nel senso che io dovrò individuare un soggetto che è quello al quale mi devo riferire, ma tutti gli altri no, non dovrebbero essere messi a conoscenza dello stato di salute del paziente. Salutiamo Marilena da Padova che è in linea con noi, intanto buongiorno. Buongiorno, la mettiamo. Grazie a lei per essere intervenuta, ma voglio intanto porre una domanda che arriva via SMS da un ascoltatore o ICE, non lo so, quando un bambino ha i pidocchi, è doveroso dirlo? Oh santo cielo, è qua salute e scuola si mettono insieme. Avvocato Bolognini, diciamo sì, perché qua ci vanno un po' di mezzo gli altri, quindi forse sì, delicatamente è una regola di buon senso e bravo, di esatto. Che venga detto. I bambini, i bambini ci rimangono magica. Male quando poi gli altri compagni dicono i pidocchi però anche insomma, le mamme quando dirlo, lo prendo... le mamme devono fare rete. Esatto. Andiamo a Marilena da Padova, buongiorno. Sì, ecco. Buongiorno, la mia domanda è questa. Io sono presidente di un'associazione di pazienti oncologici, sì. Quindi di volontariato, e ci capita spesso di ricevere telefonate o email da pazienti che ci mandano documentazione relativa alla loro situazione di salute, no? Perché ci chiedono una second opinion, perché ci collegamento ad una second, perché ci chiedono insomma riferimenti, un aiuto, certo. Un aiuto, ecco. E io chiaramente sono sempre molto imbarazzata quando ricevo questa documentazione. Allora la mia domanda è: come mi comporto? Certo. Al di là del fatto che elimino e distruggo sempre tutto e non tengo nulla. Beh, no? Ovvio, lei per prima eregge una barriera di protezione appunto per queste persone. Avvocato Bolognini, in un minuto purtroppo, poi magari la mettiamo in contatto con Marilena e le dà qualche suggerimento. In questi casi bisogna chiedere un consenso, dare un'informativa. Mi rendo conto che possa essere difficile da gestire come situazione, ma sì, questo dice la legge. In generale comunque ricordiamoci come regola che al di là del rispetto di regole, di norme puntuali, specifiche, noi dobbiamo sempre seguire la stella polare della dignità, della tutela della dignità delle persone, quindi nessun trattamento di dati sulla salute a maggior ragione può consentirci di maltrattare la dignità delle persone. Grazie. Stanno arrivando moltissime telefonate, voi continuate a scriverci a Cuore Denari e noi vi metteremo in contatto con i nostri esperti. Molto bene, noi ci sentiamo domani come sempre, grazie a tutti, buona giornata. Natura, nutrizione scientifica vi ha presentato Cuore e Denari.